Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di Un abuso al giorno. Allora, prima di iniziare la nostra puntata odierna, subito la posta elettronica alla quale indirizzare le vostre segnalazioni: unabusoalgiorno@radio24.it. Una preghiera personale: la mia redazione sta ricevendo moltissime lettere relativi a disservizi che riguardano Telecom, Telepiù, 3, Vodafone, chi più ne ha più ne metta. Tra queste ci ho messo anche compagnie scomparse. Mi rendo conto che i servizi telefonici sono una gran parte della vita di noi italiani, però veramente, credetemi, ormai non so più come affrontarle queste questioni, perché il disservizio è continuo e generalizzato. Prometto però che dedicherò una puntata o più puntate solo a questo tema, mettendo insieme alcune di queste lettere. Detto questo, vi ricordo il mio blog sul quale interloquire, una forma che amo moltissimo di colloquio con voi radioascoltatori e lettori del Sole 24 Ore. Il blog si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole, oppure digitate robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. I temi sono sempre quelli che io amo: legalità, diritti e criminalità organizzata. Allora, alcune settimane fa un radioascoltatore ci ha scritto una sintetica lettera nella quale lamentava la situazione a Milano che si veniva a creare allorquando si trattava di rinnovare i permessi di soggiorno. Questo nostro radioascoltatore ci segnala che il 29 dicembre alle 6:10 della mattina c'erano già almeno 40 persone in fila, con il rigore dell'inverno milanese certamente non è piacevole. Molti di questi poi si mettevano in coda e attendevano il momento dell'apertura. Alcuni di questi che si aggiungevano successivamente in coda correvano il rischio di rimanere fuori e di dover ritornare poi l'indomani per rinnovare o cercare di rinnovare il permesso di soggiorno. Suppongo che la situazione sia simile in altre città, ma per disquisire e parlare di questo io ho chiamato due persone che sicuramente ne sanno più di me e più di molti di noi, e sono il dottor Giuseppe De Angelis, dirigente dell'ufficio immigrazione della questura di Milano. Benvenuto De Angelis. Benvenuto a voi, saluto i radioascoltatori. E ringrazio e saluto Giuseppe Vallifuoco, che è il responsabile del Dipartimento Immigrazione della CGIL di Milano, della Camera del Lavoro della stessa città. Benvenuto Vallifuoco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora De Angelis, io direi di cominciare da lei, di partire da lei. Queste file sono la ordinaria amministrazione, sono un evento eccezionale, si verificano soltanto in alcuni momenti dell'anno. Ci spieghi un po' qual è appunto la situazione che voi come questura di Milano vivete in queste occasioni. Guardi, per comprendere le code in via Montebello bisognerebbe conoscere la logistica della questura di Milano. In via Montebello vengono rilasciate tutta una serie di tipologie di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati solo dalla sede centrale, per cui quella coda che vede non è relativa ai semplici rinnovi di permessi di soggiorno, le dico solo richiedente asilo politico, cittadinanza, primi ingressi, studenti, nonché titolo provvisorio cartaceo. Fa di una sede particolare rispetto alle altre 22 sportelli che abbiamo diffuso in tutta la provincia, dove non c'è una coda programmata dagli inviti che ormai giungono via posta, ma è una folla imprevedibile e aleatoria, dovuto proprio alla particolarità degli uffici che sono in via Montebello, che praticamente nulla ha a che vedere con il rinnovo in senso stretto, come diceva il telespettatore. Ormai sono 2 anni che i rinnovi si fanno alle Poste Italiane. Io riassumo e mi dica se sbaglio nella mia sintesi. Gli uffici di via Montebello in realtà servono una platea sconfinata a volte di imprevedibili di persone che vanno lì per richiedere i più vari certificati. È così, no? In particolare il 29. Ecco, ma proprio questo le volevo chiedere: come mai in determinati periodi però chi viaggia per Milano vede fuori da via Montebello queste file che francamente a volte fanno anche un po' impressione? Tenga conto che noi apriamo al pubblico alle 7, un'ora prima dell'apertura degli sportelli, proprio per evitare la permanenza più a lungo possibile all'esterno. Via Montebello rilascia i titoli di soggiorno provvisori, cioè noi prendiamo atto che siamo a circa 8-9 mesi con l'attuale procedura della spedizione distribuzione dei kit postali. Di questi 7-8-9 mesi solo 3 vengono assorbiti dalla zecca dello Stato per produrre e spedire un titolo di soggiorno alla sede. Pochi sanno che i permessi di soggiorno vengono prodotti a Roma e da Roma raggiungono quotidianamente le 110 questure. Questo ha una perdita media di tempo, 74 giorni sul territorio, ma a Milano arriva 90 giorni. Per compensare ciò, noi a chiunque ne faccia richiesta rilasciamo titoli provvisori anche di 60-90, ma anche 6 mesi per gli studenti, per esempio, che vanno all'estero. Purtroppo questo tipo di permesso potrà essere richiesto solo in via Montebello, dove c'è il funzionario deputato alla firma e alla istruzione. Ho capito. Questa richiesta non è prevedibile, certo. E le cose di conseguenza ne soffrono di questa necessità. Ho capito. Ecco, quindi in determinati periodi dell'anno si formano queste code. Allora chiedo a Giuseppe Vallifuoco come sta andando a questo punto la sperimentazione o comunque le nuove procedure alle quali faceva accenno De Angelis, visto dalla parte di chi, come lei, ha a che fare con gli immigrati dalla mattina alla sera. Guardi, ho ascoltato attentamente ciò che ha detto il dottor De Angelis, tra l'altro lui personalmente è anche molto impegnato nel cercare di venire incontro alle grandissime difficoltà, però a onor del vero, noi siamo nella situazione nella quale, contrariamente a ciò che avveniva prima della procedura del rinnovo del permesso di soggiorno, le dico, 4-5 anni fa più o meno i ritardi erano gli stessi di oggi, dopodiché la Questura di Milano ha fatto uno sforzo incredibile per ridurre questi tempi, portandoli veramente lodevolmente a 3-4 mesi per la carta di soggiorno, addirittura 4-5 per il permesso di soggiorno. E voglio dire, questo con la vecchia procedura, fino all'11 dicembre 2006, quando è cambiato tutto il procedimento. Mi pare di capire che però secondo il suo giudizio è cambiato tutto, ma non è cambiato niente alla fine. No, ma attualmente la Questura di Milano, voglio dire, ha ritardi in tutta la procedura, ma non la Questura di Milano, tutto il procedimento per come avviene. Il richiedente deve attendere ben ormai quasi 18 mesi per arrivare a avere il tesserino dal sistema, e voglio dire, ciò ha portato a una moltiplicazione anche di richieste da parte dei nostri sportelli, che è una cosa crescente a dismisura, che ci porta a riflettere un po' sulle responsabilità di questa di questo ecco, ma fenomeno. Io le chiedo questo, Vallifuoco, sì. Ora sui ritardi, la farraginosità delle procedure sicuramente non imputabili, sono certo per la gran parte alle questure di tutta Italia, ma ad un legislatore italiano particolarmente avvezzo a fare cose astruse, questa purtroppo è una cosa che sappiamo e conosciamo, e quindi sarà oggetto sicuramente di nostre nuove riflessioni nel futuro. Ma dal punto di vista proprio logistico le chiedo, non è un abuso in più quello di costringere persone a soggiornare fuori per cercare di avere una risposta ad un proprio diritto? E ripeto, qui non stiamo mettendo sotto accusa la Questura di Milano o altre questure, stiamo chiedendo e sto cercando di capire se è possibile ridurre al minimo i disagi. Questo no, ma credo proprio di sì. Non solo un abuso, ma è anche, voglio dire, questo sistema produce proprio dei danni gravi alle persone che richiedono documenti talmente importanti per loro che designano lo stare in questo paese in modo legale o illegale. Ecco, io la interrompo un attimo, Vallifuoco. Vorrei mettere prego in evidenza due questioni. Rapido però. Rapido. Voglio dire, queste persone trovano dei problemi crescenti giorno per giorno nella società, nel senso, nel trovare case d'affitto, le banche che non concedono i mutui, problemi di ottenere la patente di guida, problemi di sancire addirittura gli atti notarili, i datori di lavoro che negano il contratto di soggiorno perché con la ricevuta delle poste per troppo lungo non pensano che, voglio dire, sia un lavoratore illegale anziché no. Ecco, questa roba qui ci sta facendo pensare alla CGIL, stiamo maturando l'idea di iniziare un'iniziativa giuridico-legale improntata sulla class action. Ok. E di class action ne parleremo quindi sicuramente nei prossimi giorni. La parola conclusiva, nel ringraziare ovviamente Vallifuoco, e al dottor De Angelis. E dunque, cosa si può fare ancora per venire più incontro alle esigenze dei cittadini? Guardi, il problema della questura di Milano è essenzialmente logistico, ha ragione quando non ci sono gli spazi per accogliere tutto, però non dimentichiamo sempre di fare una puntualizzazione. Nel dicembre 2006 non è solo partito il progetto di portalizzazione, ma l'Italia ha aderito alla specifica direttiva UE di varare un permesso di soggiorno più sicuro, che deriva dai fatti dell'11 settembre. Certo. Quindi sono state le due procedure sommate che hanno portato a tutta questa benissimo, situazione. Benissimo. Sui 18 mesi, mi dispiace dirlo, io è impossibile, stiamo aprendo le buste di febbraio-marzo 2008. Su 217.000 kit postali giunti dall'11 dicembre fino all'altro ieri, abbiamo da aprire ancora 39.700 buste, che fa capire che la gran parte è stata fatta. Benissimo. Che in queste solo 40.000 buste ci sia gente che aspetti un anno, è vero, ma noi non le apriamo come il burocrate cieco in ordine, stiamo aderendo a tutte le richieste di urgenza, per cui certo, c'è uno spazio di 12 mesi, ma comunque ridotto a meno di 40.000 buste. Benissimo, io la ringrazio per questa specifica che va nel senso di garantire sicurezza e legalità ovviamente al nostro paese. La ringrazio per il suo intervento, torneremo perché mi pare che i temi siano davvero più di quelli che io immaginavo. Grazie in regia a Valeria Bernardi e in studio Laura Fagina, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.